Cotto il tizio allo sguardo spento, mentre aumenta il vento, si dilatta il cielo, cresce lo spazio-tempo, l'alcol nella serata ven crescendo, lui pensa alla depressione che va insieme ai soldi che spendo. Se la portiera resta aperta, questa sera resta aperta, ancora una scelta, mentre butta la breccia dietro in mezzo a una coperta, il cervello in lava scoperta, riesce a vedere la sua vita se si concentra, la fretta lo impossessa mentre la tempia gira, ancora scesa la prima, mentre accende una siga, il freddo non lascia posti caldi, risate cali nei palmi di un operaio che pensa come pagare. I pensieri sono armi, sfondano la protezione dentro di lui e da benzina il motore accelera e spanda, mentre in auto aumenta il calore, vede la strada nebbiosa come dietro un alone, il vino amplia i cinque sensi senza il freno inibitore, vede doppio mentre pigia l'acceleratore, luci di fronte prima il rumore, aumenta l'adrenalina e poi solo un bagliore. Risveglio in ospedale, di corso è il primo caso di urgenza. Non basterà un periodo di degenza. Vede luci dalla barella mentre il fiato gli si spezza, ma lo tranquillizza una dottoressa con una carezza. Le sgrana gli occhi mentre guarda la cartella. Lui urla, quando un dolore blocca la mascella, sente il sangue scendere per gravità contro voglia. Lasciano occhi in corridoio e nella soglia, prima di entrare in sala operatoria. Cinque persone cercano di cambiare questa storia, mentre annusa la morfina sente odore di cicoria. Vede una donna con il bisturi, nei suoi occhi la gioia, prima di chiudere i suoi ne vede un'altra che lo spoglia, vede i campi lisi e sente sulla fronte il tocco di una foglia. È l'ultimo respiro di chi è ansimo dal primo. La vita è correre verso una lama sapendo il grado del filo. L'uomo era il modo che nelle sue condizioni il tizio è già morto, quindi per noi fate le proporzioni. Mi puoi sfogliare per spingerti al suolo. Mi puoi spogliare di tutto quello che ho, camminando e lasciandomi solo. Io sono tutto insieme a quel che so. Ho il peso per spingere.